Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati ad un nuovo appuntamento con Salva Danaio. Nel nostro Salva Danaio ancora oggi torniamo a mettere gli investimenti. Ieri è stata un'altra giornata pesantissima per le borse. Quante volte abbiamo iniziato una puntata di Salva Danaio così, e chissà, senza voler fare le cassandre, quante ancora ne inizieremo in questo modo. In ogni caso, in periodi di crisi come quello attuale, il bisogno di sicurezza fa aumentare la domanda dei titoli di Stato, come è accaduto ieri con le richieste che sono state doppie rispetto all'offerta di obbligazioni del Ministero dell'Economia. Ciò ha causato un calo generalizzato dei rendimenti, è una tendenza fisiologica naturale, ma sembra una prospettiva che molti investitori sono disposti ad accettare pur di non tornare in questo momento in borsa, dove la volatilità rimane alle stelle e scoraggia ogni presa di posizione, anche se in realtà c'è anche chi sta riuscendo in borsa a battere la crisi. Noi oggi parleremo di questo, tornando anche ad analizzare tutti quei fattori che stanno continuando a generare la tensione elevatissima che vediamo ogni giorno sui mercati finanziari. 800240024, titoli di Stato e titoli vincenti a Piazza Affari, questo è il tema che vogliamo commentare con voi oggi a Salva Danaio. E il tema di cui parliamo stamattina con Giorgio Giovannini, country manager per l'Italia di Anderson Global Investors, e Matteo Finelli, responsabile multibrand di Zenith SGR. Il numero verde ve l'ho ricordato, il numero per i vostri messaggi è il 349-238-6666, visto che analizzeremo lo scenario di mercato, la situazione che insomma abbiamo sotto gli occhi, e cercando di individuare anche quali possono essere le prospettive di chiusura d'anno, ma anche di questo 2009 che si aprirà tra poco più di un mese, che sarà presumibilmente, probabilmente, quasi certamente all'insegna della recessione mondiale. Questo è il tema di oggi, ma cosa succede oggi in borsa? Succede che dopo i cali fortissimi di ieri, oggi c'è un tentativo di rimbalzo, ma è un rimbalzo che proprio non tiene. Insomma, abbiamo un guadagno di circa lo 0,2% a Londra, Francoforte più 0,13%, Parigi più 0,18%, S&P MIB a Piazza Affari più 0,89%. Prima di andare a vedere i temi della seduta di Milano e prima anche di sentire la nostra scheda riepilogativa del tema di oggi, volevo subito a bruciapelo chiedere ai nostri ospiti: il timore degli ultimi due giorni è il fallimento di General Motors, il colosso automobilistico di Detroit. A microfoni spenti, i nostri ospiti, i miei ospiti stamattina mi dicevano: io non ci credo. Giovannini. Ripeto, non ci credo. Non è possibile che questa eventualità possa scatenarsi. Non è che non sia possibile, non ha senso, dopo aver salvato istituzioni finanziarie di ogni genere e comunque attori di mercato meno importanti rispetto a General Motors, andare a colpire uno dei cuori dell'economia, la cosiddetta Main Street. Cioè, hanno salvato Wall Street, salveranno sicuramente anche un nome e soprattutto un'industria di questo tipo. Matteo Finelli. Mi trovo d'accordo, l'unica cosa da dire è che in questo caso c'è bisogno probabilmente di una grossa rapidità, nel senso che sappiamo che purtroppo le scadenze che deve onorare General Motors sono abbastanza strette, quindi sostanzialmente se non ci fosse, se si parlava di un intervento che sarebbe potuto avvenire nei primi mesi del 2009, dai dati che si hanno ad oggi, se questo intervento, cioè se questo sostegno, questo flusso di liquidità non venisse dato a General Motors nelle prossime settimane, probabilmente dovremmo andare incontro a questo rischio. Il presidente americano eletto Obama ha chiesto a Bush in questa fase di transizione tra un'amministrazione e l'altra di aiutare ed eventualmente di intervenire per l'industria automobilistica americana, però l'amministrazione uscente non sembra intenzionata a garantire questo sostegno, Giovannini, quindi... Quindi lo garantirà, queste sono schermaglie politiche, i repubblicani nicchiano, però già oggi, mi pare o ieri, Nancy Pelosi, non la rappresentante dei democratici alla Camera, l'ha detto chiaro e tondo, cioè alla fine lo stile americano non è... non vorrei dire lo stile italiano, che sembra anche un po' offensivo, però cioè alla fine c'è una comunanza molto maggiore. Dio salvi l'America, e quindi se il nuovo presidente, se la maggioranza del Congresso è a favore dell'intervento per salvare il settore automobilistico, i repubblicani dopo un po' di schermaglie faranno. Come hanno fatto con il piano Paulson, no? Come hanno sempre fatto, è stata l'altra sceneggiata, un pochino così, che ci ha ricordato le nostre cose locali, ma poi si sapeva che sarebbe passato. L'interesse dell'America è soprattutto. Matteo Finelli, un'altra considerazione invece sulla giornata ieri di borsa. Ancora una volta i cali pesantissimi che si sono spalmati dall'Asia all'Europa e poi anche a Wall Street sul finale sono stati ancora una volta attribuiti all'arrivo della recessione per il 2009, che sarà pesantissima, che sarà globale. Ma che novità è questa? E perché ieri le borse hanno dovuto enfatizzare così tanto questa prospettiva? Quella a cui assistiamo sono solamente, sostanzialmente, secondo me, gli ultimi picchi di volatilità. Dobbiamo la volatilità attuale di questi giorni, in particolare il VIX sull'S&P 500, il più grosso indice capitalizzazione mondiale, è ai massimi di sempre. Non abbiamo mai assistito a dei valori così alti, nemmeno sotto l'attacco alle Torri Gemelle, la guerra in Iraq o gli eventi finanziari peggiore che abbiamo assistito negli ultimi 20-30 anni. Questi sono indubbiamente degli eccessi cui probabilmente in alcune fasi abbiamo assistito nella positività, con un'eccessiva sovrastima di capacità di crescita di alcune aziende. In questa fase indubbiamente stiamo eccessivamente negativi e il mercato è eccessivamente penalizzato da una view negativa. I volumi non sono tanti e probabilmente c'è ancora margine per chi può speculare al ribasso. Io sono convinto che probabilmente più, siccome la sappiamo che la borsa sta anticipando la recessione, ma sarà in grado anche di anticipare la ripresa, che secondo me sarà prima di quanto noi ci aspettiamo. E sentiamo allora tutta questa situazione generale come si traduce anche nelle scelte di investimento che gli italiani stanno facendo, se puntano sul mercato domestico. La crisi ormai dilaga, le borse di tutto il mondo tremano e gli investitori fuggono dai mercati azionari, obbligazionari e dal risparmio gestito per tornare a rifugiarsi nei poco redditizi, ma sempre sicuri, titoli di Stato. E nemmeno la discesa dei rendimenti sembra frenare i risparmiatori, che continuano a guardare ai bot come al modo migliore per tutelare il proprio denaro. E l'asta indetta ieri dal Tesoro non ha fatto che dimostrare questa tendenza, in atto ormai da diversi mesi. La richiesta di bot trimestrali è stata addirittura superiore al doppio dell'offerta, 9,3 miliardi richiesti contro 4,5 miliardi offerti, mentre quelli annuali hanno registrato richieste per circa 10 miliardi a fronte dei 6 offerti. Un vero e proprio boom di domande, dunque, che non si verificava dal 2004. La conseguenza però è sempre la stessa. L'aumento della richiesta genera un rialzo del prezzo del titolo e dunque un calo del suo rendimento. In particolare i bot trimestrali hanno registrato un rendimento lordo del 2,79%, ai minimi dal maggio 2006. Ancora più marcato è stato invece il ribasso dei bot annuali, con un calo al 2,63%, ai minimi dal novembre del 2005. Ma i risparmiatori ultimamente non sembrano guardare tanto al loro rendimento, quanto alla sicurezza che essi rappresentano, accontentandosi anche di bassi tassi di interesse. Per chi comunque volesse azzardare un ingresso nel mercato azionario, è bene fare attenzione. Di rimbalzi di sicuro ce ne saranno, considerato che la maggior parte dei titoli tratta a prezzo di sconto, ma saranno seguiti con ogni probabilità da repentine prese di profitto. Dando uno sguardo agli indici di Piazza Affari, tra i titoli a minor capitalizzazione ce ne sono addirittura alcuni che hanno scampato gli effetti crisi. Landi Renzo, Bastoggi, Banca Popolare di Intra e Ansaldo STS hanno messo per esempio a segno da inizio anno ad oggi rialzi compresi tra il 20 e il 50%, a fronte di una perdita del listino milanese pari a circa il 50%. 800 24 00 24, le domande, il numero verde per le vostre domande. Tra l'altro, ieri mentre stavamo con le mie collaboratrici analizzando questa tendenza di borsa dall'inizio dell'anno per individuare le società che si sono salvate dalle vendite che hanno travolto praticamente tutto il listino, così mi chiedevo: ma cosa fanno queste società che hanno vinto? Landi Renzo, per esempio, ho visto che praticamente produce impianti per le automobili GPL e metano, per cui ha cavalcato anche, come dire, la questione dell'aumento dei prezzi del carburante. Effettivamente, facendo selezione, qualche storia vincente si trova. Matteo Finelli, lei il mercato italiano lo conosce molto bene. Noi abbiamo avuto un ospite a Salvadanaio venerdì scorso che ci ha suggerito, però ha suggerito agli ascoltatori che chiedevano così un orientamento in questo senso, di stare lontani dalle piccole capitalizzazioni in questo momento, perché visto che le banche stanno erogando molto meno credito per società di questo tipo, di piccole dimensioni, sarà il 2009 un anno molto difficile. Però, insomma, giudicare da quello che è successo non è stato esattamente così. Bisogna fare selezione, lo sappiamo, però... È un concetto macro, indubbiamente in un momento di crisi sappiamo che nei momenti di positività solitamente le piccole e medie capitalizzazioni sovraperformano le grandi, perché comunque hanno maggiore capacità di crescita, perché ci sono meno volumi, quindi è più facile che una domanda faccia rialzare i prezzi, si vede maggiore crescita, e al contrario nelle fasi negatività ci sono meno flussi, c'è meno acquirenti, quindi è un discorso concettualmente corretto. Secondo me, come sempre, bisogna fare dei distinguo, quindi è vero che in una fase di positività solitamente è meglio avere small rispetto alle large cap, in una o quantomeno forse soprattutto nella fase finale dei mercati al rialzo le piccole capitalizzazioni sovraperformano le grandi, non è vero che nella negatività è al contrario. Secondo me bisogna, questo è un concetto macro corretto, bisogna poi analizzare le singole storie. Chissà tra l'altro quanti risparmiatori italiani, piccoli investitori italiani avranno colto queste opportunità di mercato, che comunque si sono riusciti a fare spazio in questo anno terribile per la finanza internazionale. Fatto sta che comunque gran parte degli investitori italiani invece adesso stanno facendo grande incetta di titoli di Stato, soprattutto le piccole scadenze. Ieri per il titolo a 3 mesi all'asta del Ministero dell'Economia praticamente la domanda è stata doppia rispetto all'offerta. Giorgio Giovannini, cosa indica questa tendenza? Indica, come al solito, che il pubblico, le persone, i singoli risparmiatori ancora una volta si fanno guidare più dall'emozione del momento, dal sentito dire, da quello che si legge tra virgolette sulla stampa o che si sente in TV, da un agire in maniera un pochino più razionale e diversificata. Ormai è anni che diciamo che un portafoglio deve essere diversificato, deve essere equilibrato, va bene, la solita frase, deve essere attinente alla rischiosità dell'investitore, propria attitudine, ma in realtà diciamo deve essere equilibrato, deve essere diversificato. Ora passare da un portafoglio che fino a ieri, che ne so, mi invento, era magari 80% su indicizzate le commodities e azionario, un portafoglio che oggi è 10% sul conto corrente e 80% in bot, secondo me dimostra ancora una volta la difficoltà a trovare un equilibrio, e la colpa è sempre, purtroppo, e metto anche me stesso, anche se non parlo con il pubblico, della difficoltà che abbiamo ancora una volta in Italia a fare una corretta informazione finanziaria. Quindi perché questo non succede in Inghilterra? Io ho diretta visione, essendo lavorando per una casa inglese. In Inghilterra non c'è questa corsa ai gilt, quindi l'equivalente dei titoli di Stato. Cioè sì, certo, c'è una ricerca di maggiore prudenza, ma ad esempio l'investimento azionario, magari in misura minore, continua a essere presente nei portafogli degli inglesi, cioè c'è più bilanciamento. Mm-hmm. Ecco, tra l'altro proprio a questo proposito Matteo Finelli, anche in questo caso, insomma, svelo poi un po' in retroscena di come funziona dietro la radio a microfoni spenti, ci spiegava una teoria che ritengo anche piuttosto affascinante. Con questi rendimenti dei titoli di Stato c'è anche un altro aspetto, insomma, a tenere in considerazione. Questi livelli forse suggeriscono che è giusto il momento di tornare in borsa. Finelli me la spiega meglio. Ma che probabilmente in questi i flussi di mercato, la teoria vincente è quella di essere contrarian, cioè quando, con tutto il rispetto del piccolo investitore, al bar ci si racconta che con la borsa si fanno tanti soldi, mi ricordo i tempi del 2000 delle Tiscali, è il momento probabilmente per alleggerire la propria esposizione. Nel momento nel quale, probabilmente un po' terrorizzati dal terrorismo fatto dalle mezze di informazione, seppur corretto, ma secondo me non sempre equo nel soppesare le due posizioni. Cioè la borsa brucia milioni di euro, ma quando sale non li genera, quindi si dà questa percezione di fonte di perdite costante dal mercato azionario. In questo momento la gente, come diceva prima il collega, alleggerisce le proprie posizioni, probabilmente consolidando delle perdite che non hanno senso, perché se l'allocazione iniziale era corretta, questo è il momento, secondo me, a piccoli passi, di incrementare la propria esposizione azionaria. Cioè un portafoglio 30% azionario e 70% obbligazionario, purtroppo automaticamente si è ribilanciato a 20-80. E questo lo ritiene corretto, anche se abbiamo di fronte a noi quasi certamente un 2009 all'insegna della recessione globale, che trascinerà inevitabilmente dentro anche indubbiamente il settore azionario. I mercati azionari, secondo me, hanno dimostrato, e questo si può guardare guardando al passato, che storicamente anticipo di almeno un semestre l'andamento dell'economia. Quindi sostanzialmente abbiamo visto i massimi dei mercati azionari su un'economia che aveva ancora qualcosa da dare, e abbiamo iniziato a vedere della negatività quando non avevamo ancora percepito che ci fosse crisi. Abbiamo sostanzialmente ad oggi perso 4 anni di rialzo, cioè siamo tornati ai livelli del 2004, addirittura su alcuni indici del 2003, probabilmente scontiamo un rallentamento già molto forte a questi prezzi. Quindi non dico che questi saranno sicuramente i minimi, quindi bisogna investire integralmente sul mercato azionario, ma oculatamente e in ragione della propria propensione al rischio, abbassare in questo momento la propria esposizione al mercato azionario è concettualmente sbagliato. Allora, sentiamo i nostri ascoltatori che scelte di investimento hanno fatto di recente. Tra l'altro vedo Angela da Roma che vuole intervenire sui titoli di Stato italiani, credo, almeno dalle anticipazioni del mio display, però sentirei subito Rinaldo da Genova che invece non ha guardato tanto negli investimenti recenti che ha fatto al mercato italiano quanto invece ad obbligazioni bancarie internazionali che sono in difficoltà. Rinaldo, benvenuto a Salvadanaio. Buongiorno e grazie per la chiamata. Io volevo chiedere, ho delle obbligazioni Morgan Stanley, Goldman Sachs e Desia. Sì. Volevo sapere se è conveniente venderle e prendere i titoli di Stato. Rinaldo, non ci mette in difficoltà, non possiamo così suggerirle in maniera spregiudicata quello che deve fare. Sentiamo un po' le ricette dei nostri consulenti di questa mattina. Dipende, sì, lo so che lei insomma lei dice, sì Giovannini mi aiuti, no, cioè lei prima no, diceva insomma allora è sbagliato usare il termine è conveniente, cioè non vuol dire nulla, è conveniente perdere oggi il 30%. Chiaro che se queste società, queste che hanno emesso queste obbligazioni dovessero a un certo punto fallire, è sempre conveniente, nel senso che uno perde una mano piuttosto che il corpo intero. Io personalmente sono convinto che il peggio sia passato per Goldman Sachs, per Morgan Stanley e per Dexia, e che gli obbligazionisti non soffriranno, per cui io non venderei in questo momento obbligazioni che mi provocano una perdita immediata e che mi danno comunque un rendimento superiore per passare ai titoli di Stato. Matteo Finelli. Mi trovo completamente in linea, facendo la solita premessa, solitamente sono noioso, augurandoci che il nostro ascoltatore non avesse tutti i propri risparmi allocati su questi strumenti. Cioè, se c'era una corretta diversificazione e quindi la componente corporate del proprio portafoglio non rappresentava il 100%, ma in ragione della sua propensione al rischio la parte corretta, sicuramente non consoliderei in questo momento le perdite. Chiaramente starei attento a seguire le informazioni, i flussi di informazioni che sono a riguardo di queste aziende, e se la situazione peggiorasse mi rifarei la domanda dicendo è meglio con perdere non mezzo braccio piuttosto che il braccio intero, ma in questo momento non mi farei prendere dal panico, soprattutto perché i prezzi attuali incorporano veramente solamente del panico. Però se il nostro ascoltatore è tentato dal titolo di Stato perché magari sta cercando una maggior sicurezza, visto che le banche sono in grande difficoltà, sono state tutte salvate, i governi sono intervenuti pesantemente, non ne lasceranno più fallire alcuna, almeno questi grandi santuari della finanza mondiale, ma almeno dismettere una piccola partecipazione nell'ambito bancario per posizionarsi sul titolo di Stato, se lui questa tentazione ce l'ha, non potrebbe anche essere, per rassicurarlo, una scelta corretta? Giovannini. Bisogna resistere alle tentazioni, non vorrei sembrare oramai ecumenico, però bisogna razionalizzare un pochino di più il proprio approccio agli investimenti. Se forse un anno fa o 6-8 mesi fa mi si fosse posta la stessa domanda, avrei detto non sappiamo ancora come si muoveranno, non c'era ancora stato l'errore Lehman Brothers, ormai tutti l'hanno capito che è stato un gravissimo errore, ha scatenato la fase più acuta della crisi, per cui forse 6 mesi fa avrei detto razionalmente riduciamo a favore di rendimenti comunque che erano ancora interessanti. Oggi, alla luce di tutto quello che è successo, del fatto che si è capito quanto siano intercorrelate le società l'una con l'altra, io sono personalmente convinto che si farà di tutto per evitare un nuovo fallimento societario, e per cui non ha senso andare a dismettere, fare la perdita e comprare qualcosa che ha un rendimento dell'1,5, 2% lordo. Angela da Roma, benvenuta. Buongiorno, la ringrazio infinitamente per questa consulenza. È una chiacchierata, Angela, ci mancherebbe che facciamo consulenza. Voi siete persone competenti e autorevoli. Grazie. Dunque, io volevo rivolgere un paio di domande sui BTP, sì. Diciamo di carattere un po', non so, teorico. Angela da Roma, l'ho fatta aspettare un po' più dei 3 minuti promessi, eccoci a noi. Dunque, signora, io, dottoressa, Volevo chiedere, adesso insomma sintetizzo, perché sono, dunque le avevo anticipato che la mia domanda era sui BTP, dunque perché sono le scadenze più lunghe a risentire in misura maggiore dell'andamento dei tassi, del calo o magari dell'aumento? Cioè mi interessa proprio capire il meccanismo per poi così fare le mie scelte. E poi volevo chiedere, insomma questa è una cosa molto breve, pratica, so che esiste la possibilità ovviamente che lo Stato non sia in grado di rimborsare questi prestiti. In tal caso insomma il denaro si perde definitivamente o è prevista qualche forma di rimborso in ritardo parziale? Allora Angela, non apriamo il velo neanche su questa provocazione, perché qua sennò scateniamo il panico. Detto questo, ovviamente oggi l'investimento in un titolo di Stato italiano è ritenuto un po' più a rischio perché c'è il famoso allargamento dello spread con il titolo di Stato tedesco, il corrispondente, il paritetico tedesco, eccetera. Magari su questi aspetti ci ritorniamo. Facendo poi le dovute chiarificazioni teoriche ma anche pratiche, insomma quando il governo argentino è fallito non è che gli obbligazionisti abbiano ripreso i detentori di titoli di Stato, sta facendo un brutto gesto Matteo Finelli, ma nessuno ha preso niente, per cui è chiaro che il default, la bancarotta di uno Stato sovrano comporta che tutti i debitori in circolazione non possano recuperare, a meno che poi non ci siano delle ristrutturazioni del debito, però insomma sono questioni un po' complicate. Detto questo, nel nostro paese speriamo che non sia una situazione della quale dovremmo anche parlare prossimamente, Matteo Finelli, visto che anche su questo eravamo così infervorati nella nostra conversazione a microfoni spenti, allora cosa vuol dire che investire sul titolo di Stato italiano, sul decennale italiano, è più rischioso rispetto al decennale tedesco? Questa questione famosa dell'allargamento dello spread a 100 punti, cosa implica? Spieghiamolo in termini semplici se riusciamo ai nostri ascoltatori. Cioè, è una, diciamo, da questo allargamento, diciamo, partiamo dall'assunto che sostanzialmente raramente il mercato sbaglia, cioè se prezza un rendimento che su un titolo decennale per 10 anni si ha un rendimento di circa il 4% all'anno con un titolo italiano e circa il 3%, stando largo circa, da un titolo tedesco, vuol dire che implicitamente sono maggiori statisticamente le probabilità che tra 10 anni le 100 lire che noi diamo allo Stato italiano non ti vengano restituite rispetto alle probabilità che non te le dia allo Stato tedesco. È speculazione, nel senso, sicuramente l'andamento del bilancio dello Stato italiano non è il fiore all'occhiello della nostra nazione, ma sembra tendenzialmente impossibile, è una parola brutta in questi mercati perché sappiamo che nulla è impossibile, ma molto difficile che questo avvenga. Per rifarsi alla prima domanda, semplicisticamente, chiaramente, perché sono i titoli più a lungo che fluttuano maggiormente? Perché la duration, cioè la mancanza di tempo alla scadenza, fa sì che se i titoli rendono uno 0,20 all'anno in più da un giorno con l'altro, se il flusso di cedole è per 3 anni, la variazione sarà proporzionata al fatto che solo per 3 anni si ha una differenza di 0,20. Se il titolo è a 30 anni, nel prezzo che incorpora questo flusso, chiaramente più è lunga la scadenza, più le differenze minimali di variazione da un giorno con l'altro di rendimento vengono spalmate sui numeri di anni che si hanno alla mancanza per raggiungere la scadenza del titolo. Tra l'altro, quindi è implicito che un trentennale sia più volatile di un decennale, che sia più volatile di un 5 anni, cioè più si allunga la scadenza, più le variazioni di rendimento vengono moltiplicate per gli anni, per la duration che c'è. Insomma, sembrano poi strumenti di investimento tanto sicuri e tanto semplici, mi sembra che invece qualche volta insomma è anche un po' abbastanza complicato anche spiegarlo in termini semplici a chi poi punta effettivamente su questi strumenti di investimento. Sulla questione dei rendimenti dei titoli di Stato italiani volevo suggerirvi anche un articolo del collega del Sole 24 Ore Moria Longo di questa mattina, che effettivamente spiega anche le ragioni per cui le curve dei rendimenti si stanno in maniera abbastanza netta irripidendo, non so se adesso è il termine giusto, Giorgio Giovannini. Tra l'altro ci sono delle aspettative che non riguardano solamente l'andamento dei titoli, dei tassi di interesse per quello che riguarda l'eurozona, ma ci sono anche delle aspettative ovviamente legate alla recessione, spiega il mio collega, e quindi insomma tutti questi fattori stanno in qualche maniera individuando anche una prospettiva più difficile per tutti gli stati sovrani prossimamente. Sì, però ritorno, mi dispiace, continuiamo a dire, anch'io sono d'accordo con quanto detto precedentemente. Stavolta mi è andata così, cioè, sembra, spesso, però mi capitano anche delle persone con visioni molto contrapposte. Siamo d'accordo, però è anche la logica, è chiaro che in questo momento qualunque ragionamento viene, esce un pochino dalla razionalità e viene in qualche modo influenzato dall'emotività, da quello che si legge, ciò che viene detto, dalla sensazione, cioè la gente non è tranquilla, le persone a leggere di licenziamenti, di recessioni dove il peggio deve ancora arrivare, questa è la classica frase, no? Che va in questi mesi, e alla fine porta tutte queste considerazioni, ma gli stati sovrani, ma noi faremo la fine dell'Argentina, ci sono dei blog dove mettono Italia con la bandiera dell'Argentina, questo chiaramente a torto o a ragione crea una situazione di insicurezza. E poi alla fine io non ho letto, purtroppo mi scuso, questo articolo, cos'è uscito io oggi? Lo do io, è la Sibilla dei mercati che vede, ecco, nero. La Sibilla, già un titolo che è tutto una premessa, non ho ancora letto, ma in questo momento tutti gli investitori sono dominati, soprattutto quelli di piccolo al dettaglio, il pubblico è dominato più da fattori psicologici che da fattori razionali. Cioè General Motors, alcuni pensano che sia già fallita o addirittura fallisce tra una settimana. Sentiamo se questo anche è il timore, per esempio, di Livio da Genova. Livio, benvenuto. Sono qua, buongiorno. Pronto? Sì, sì, ci siamo. Ecco, no, io possiedo delle obbligazioni GMAC che a tutt'oggi hanno perso il 50% del loro valore. Io non riesco a immaginare quale possa essere il futuro per questo titolo, e allora appunto voglio sentire voi che siete più esperti, che cosa, se è possibile pensare di perdere tutto, qual è il futuro? Non ho GMAC, è il braccio idea finanziario di General Motors. Beh, quindi no, non è più controllante, esatto, al 49% infatti, mi pare, il 51%. C'era stata la cessione, esatto. Quindi che fare? Diciamo che l'eventuale, presunto, possibile, oggi definito da voi anche improbabile, fallimento di General Motors potrebbe portare dietro anche la controllata indirettamente, insomma, finanziaria. Sì, incredibilmente GMAC, le obbligazioni GMAC sono considerate meno a rischio rispetto alle obbligazioni General Motors. Ma questo è il mio parere personale, io invece penso all'incontrario, cioè penso che le obbligazioni di General Motors, cioè la General Motors, verrà salvata, e quindi di conseguenza anche la GMAC uscirà da questo impasse. Cioè credo che l'intervento sarà a livello di società automobilistica, quindi di General Motors, non di braccio finanziario a cui la General Motors si appoggia, nel caso specifico la GMAC. Che fare? Io personalmente è inutile, sono convinto che non verrà lasciata fallire, per cui anche tutto, anche chiamiamolo qui, così, l'indotto. Anche qui adesso cerco di dare una risposta, spero che questo investimento non rappresenti la parte predominante di un portafoglio, nel senso che è chiaro che più si è investito il proprio denaro su una singola obbligazione, un singolo titolo, un singolo settore, più la pressione psicologica è forte. Se, come io spero, il nostro ascoltatore ha investito una quota minima del proprio portafoglio in questo tipo di obbligazioni, io sono convinto che alla fine porta a casa il suo investimento. Francesco da Sondrio, benvenuto a Salvadanaio. Buongiorno a voi, io volevo un'informazione sul titolo Unipol, poi volevo chiedere anche al vostro esperto cosa ne pensava, diciamo, sempre su questo titolo, riguardante anche le implicazioni che può avere diciamo, la società al riguardo della restituzione, sembra, di 100 milioni di euro delle polizze che avevano con Lehman Brothers. Sì, ecco, e alla luce di questo, se eventualmente secondo lui poteva averne un, diciamo, nel dividendo un poteva incidere sullo stacco del dividendo. Per esempio ieri Banca Intesa ha fatto sapere chiaramente insomma come si comporterà col dividendo. Matteo Finelli, le notizie di Banca Intesa non le sono piaciute ieri, la borsa ha decretato chiaramente. Direi che la borsa ha decretato che non sono piaciute. No, infatti. Detto questo, adesso io non so se i nostri ospiti questa mattina, se i miei ospiti di questa mattina vogliono sbilanciarsi esattamente su Unipol. A mercato aperto non ci piace neanche tanto esprimere giudizi diretti sulle società. Detto questo, sì, Unipol ha promesso che in qualche maniera verrà incontro ai propri clienti che hanno sottoscritto polizze indicizzate a titoli Lehman Brothers collocate appunto da Unipol stessa. Partiamo da un contesto generale. Il settore assicurativo piazza affari. Matteo Finelli, le piace? Ma diciamo, mi piace trasversalmente, mi piace l'idea di incrementare l'esposizione ai mercati azionari in genere. Forse sul settore assicurativo ho il timore che qualcosa possa ancora emergere di negativo. A questi prezzi probabilmente già sconta anche notizie non conosciute. Probabilmente se dovessi ripartire nell'incremento dell'esposizione azionaria del portafoglio avrei altre idee in testa, penso per esempio a alcuni titoli del comparto energetico o del comparto più direttamente e semplicemente finanziario che mi sembrano eccessivamente penalizzati. Intanto stavo cercando anche di controllare Unipol come si fosse comportata dall'inizio dell'anno, non è né tra i 10 migliori né tra i 10 peggiori, per cui un anno fino ad ora senza infamia e senza lode. A lei Giovannini questo comparto piace, insomma come valuta l'interrogativo del nostro ascoltatore? Allora, per rispondere su Unipol, anche se noi non abbiamo fondi direttamente impegnati sul mercato italiano, quindi non abbiamo un Henderson Italia, però abbiamo una serie di liste di azioni che seguiamo con particolare attenzione, da cui pescare per fare un azionario Europa. Proprio la guardavo tre giorni fa e Unipol è inserita in questi, quindi è un titolo che noi riteniamo interessante da seguire, comunque che monitoriamo. Questo è sicuramente una notizia a mio avviso positiva per l'ascoltatore, cioè un titolo che in qualche modo suscita interesse in gestori che non operano in Italia ma che cercano di avere una logica un pochino più trasversale europea. Diciamo che la questione poi Lehman non è stata particolarmente preoccupante, certo non è stata una bella questione anche per la reputazione, però mi pare che la società l'abbia presa abbastanza subito di petto. Per quanto invece riguarda, anche qui anche noi abbiamo la stessa opinione del collega, cioè in questo momento le opportunità più interessanti sono proprio su quel settore direttamente bancario, finanziario, che è stato così tartassato e che nel momento in cui la nebbia ci dovesse un minimo chiarire o evaporare, hanno sicuramente potenzialità di ripresa più elevate rispetto al settore assicurativo. Anche qui il punto interrogativo, ed è vero, è quello di capire se effettivamente tutto è già uscito. Il settore assicurativo è stato penalizzato più che per vere notizie, per in maniera quasi da trasporto, cioè scendono le banche, quindi facciamo scendere anche le assicurazioni. Bisogna vedere, ad esempio un titolo come Allianz è stato sicuramente estremamente penalizzato a fronte di, è vero, risultati non eclatanti, ma comunque non di una situazione difficile come quella che ad esempio hanno vissuto le banche tedesche. Per cui guardiamo più alle banche piuttosto che alle assicurazioni. Nello da Napoli, buongiorno. Buongiorno, senta, volevo chiedere, perché ho qualche azione di un paio di aziende che hanno investimenti negli Stati Uniti. Sì. Mi chiedevo com'è che con questo rafforzamento che c'è stato del dollaro comunque non si sono mosse, non sono aumentate. E volevo poi, se per dai nostri esperti, qualche previsione per il breve e medio tempo su queste tipi di aziende. Io, siccome so, Nello, quali sono anche le società di cui lei parla, che sono Luxottica e Lottomatica, allora, perché probabilmente la recessione pesantissima che gli Stati Uniti subiranno forse non serve a... è il fattore appunto che non permette al dollaro di controbilanciare effettivamente questa prospettiva, anche se il biglietto verde si sta rafforzando. Matteo Finelli, allora, il settore del lusso, ma l'Automatica, ovviamente stiamo parlando di due comparti molto diversi. però diciamo, l'automatica dovrebbe essere un settore tipicamente abbastanza anticiclico, nel senso che comunque purtroppo per sfortuna la gente ha la tendenza a abbandonarsi alla fortuna intesa come possibilità di vincita tramite scommesse, cose ancora di più nei momenti di crisi. Sognare non costa niente, abbiamo comunque costa molto poco, costa poco in rapporto, l'abbiamo visto sul caso del Superenalotto, la speranza di vincere i 100 milioni creava le code alle... Quindi devo dire, le due società di cui si parla hanno buona parte dei propri introiti in dollari, quindi il rafforzamento del dollaro, siccome poi tramutano questi dati in euro, li ha fatti beneficiare di questa ipotesi, di questo rafforzamento della valuta statunitense. Nel breve hanno anche perso meno del resto del listino, quindi hanno implicitamente un po' incorporato questo rafforzamento. Ricordiamoci, quest'estate eravamo a 1,60 di cambio, siamo in zona 1,25-1,30, quindi questo è vero. Sicuramente la recessione mondiale, il rallentamento non può non andare a impattare trasversalmente qualsiasi settore, quindi a parte i casi di prima, che erano in realtà proprio di piccole e medie capitalizzazioni che hanno il segno più davanti, all'interno dell'S&P MIB non c'è un titolo positivo, e sappiamo che, seppur concentrato, un indice che rappresenta più o meno tutte i vari settori e varie ipotesi di investimento, quindi il dollaro è stato un fattore positivo che gli ha permesso di perdere meno di altri titoli da quando si è rafforzato. Queste considerazioni valgono per esempio anche per comparti come la difesa, Finmeccanica, Ansaldo? Sì, sono anche questi, se vogliamo, anticiclici. Se pensiamo a un settore come la difesa, la vittoria di Obama, che dovrebbe essere un po' meno propenso del precedente. Non volevo usare questo termine, estremizzando, meno guerrafondaio di Bush, probabilmente come indotto indiretto, come sentiment di mercato, il settore della difesa forse non era quello da giocarsi sulla vittoria di Obama delle elezioni. Posso aggiungere una cosa? Non tanto la domanda specifica, vorrei ricordare ai radioascoltatori che molte quotazioni sono state anche penalizzate, anche di ottimi titoli, perché c'è stata la liquidazione forzata di posizioni, tipo i fondi hedge. Attenzione, io l'ho visto anche all'interno della nostra casa di investimento, i nostri portafogli erano pieni di buoni titoli, passatemi questo, titoli analizzati, valutati, visa. Siamo stati costretti molto spesso a liquidare delle posizioni perché c'era l'ondata di riscatti. Cioè, nel momento in cui il mercato richiede indietro il denaro a qualunque costo, a qualunque prezzo, uno è costretto a vendere. Allora, l'ottomatica, adesso io non lo seguo in maniera specifica, ma che magari trasversalmente poteva beneficiare della recessione, probabilmente è stata venduta perché era un buon titolo in un portafoglio che però doveva essere liquidato, perché gli investitori volevano indietro i soldi a tutti i costi, e per cui bisogna vendere. E insomma, noi da questa spiegazione anche cogliamo il pretesto appunto per chiudere la trasmissione, anche se ci sarebbero state altre tante cose interessanti da raccontare, ma lo sapete ormai, Salvadanaio puntualmente torna quasi tutte le settimane sulle questioni legate all'andamento dei mercati finanziari. Mi scuso con Ettore e Vito che non sono riuscita a sentire, lo faremo in un'altra circostanza. Grazie a Giorgio Giovannini e Matteo Finelli per essere stati con me, grazie a Gaia Romani e a Valeria Coffaro per la collaborazione in redazione, Peter Bescapè in assistenza tecnica. Salvadanaio torna domani, signori e signori, con i mutui, tanto per cambiare. Da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti.